Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Meris, torniamo sul lago di Garda per parlare del progetto InTCatch, uno dei più avanzati al mondo di monitoraggio e tutela delle acque di un lago, che prenderà via il prossimo 1 giugno. InTCatch è stato selezionato dal programma europeo di finanziamento Horizon 2020 tra 170 proposte giunte da tutto il continente, e questo progetto prevede l'uso di una flotta di droni acquatici, una decina in tutto, che saranno utilizzati per monitorare con continuità le acque del lago. E di questo aspetto, che forse è quello che maggiormente colpisce l'immaginazione, ci siamo occupati in una puntata di qualche tempo fa, ma in realtà InTCatch va ben oltre. Per 4 anni, fino al 2020, si effettueranno analisi chimico-fisiche delle acque, analisi biologiche e genomiche dei suoi abitanti, e si metterà alla prova una nuova tecnologia per il trattamento delle acque meteoriche, mentre parallelamente verranno anche messe in campo delle attività di disseminazione dei risultati sia nei confronti della comunità scientifica che delle comunità residenti. Ne parliamo con il professor Francesco Fattone, del Laboratorio di Ingegneria Chimica dell'Ambiente e dei Bioprocessi dell'Università di Verona, che è il coordinatore scientifico del progetto InTCatch per l'Italia. Buonasera Fattone. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Allora, partiamo quindi da questo monitoraggio delle acque. Quali variabili monitorerete e a che scopo? Lo scopo del monitoraggio è quello di andare a determinare lo stato di qualità chimico-fisico, lo stato di qualità ecologico delle acque del lago di Garda. In particolare andremo a monitorare parametri chimico-fisici di inquinanti anche non convenzionali, come metalli pesanti, idrocarburi, pesticidi. Andremo a monitorare la qualità bioecologica tramite analisi di ecotossicogenomica, ovvero andare ad analizzare la genomica delle comunità batteriche del lago di Garda, perché questi sono indicatori di uno stato di inquinamento. E tutto questo lo andremo a fare tramite sensori e biosensori in tempo reale, installate anche sulle flotte di droni acquatici, sì, in modo che in tempo reale avremo conoscenza della qualità delle acque, e questi dati saranno collettati in sistemi cloud che saranno interpretabili sia dagli stakeholder, ovvero dalle aziende che realizzano servizi, che partner nel progetto, che dai comuni cittadini. Che potranno così a loro volta avere questa funzione di monitoraggio. Tra l'altro, il fatto che i droni si spostano, se un cittadino per esempio può segnalare una situazione anomala, e lì il drone può andare subito a fare dei prelievi. Ecco, se ho capito bene, voi monitorate un po' questo complicato ecosistema con tanti microorganismi che abitano le acque del lago, perché se vedete degli spostamenti di questo ecosistema vuol dire che è successo qualcosa. E questo ci porta un po' alla seconda domanda. Perché la scelta è caduta da parte della Commissione europea sul lago di Garda? Abbiamo detto che questo è stato un bando molto molto conteso. Il lago di Garda è stata una scelta legata non alla qualità dell'acqua, che è ottima e speriamo continui ad esserlo, ma legata alla rappresentatività del lago nel contesto europeo. Okay. Ovvero noi dobbiamo studiare le migliori soluzioni per l'intero continente, e la qualità del rappresentativo. Un esempio su tutti è la gestione delle acque meteoriche nel bacino del Garda. Attualmente le acque meteoriche nel bacino del Garda sono gestite in fognature miste. E in che vuol dire che quando piove, sostanzialmente le acque piovane finiscono insieme alle acque di scarico della fognatura e viene gestito tutto insieme dagli stessi depuratori, diciamo così. Giusto? Esattamente. Okay. Ma quando le piogge sono intense e il rapporto di diluizione cresce, sì, una frazione di queste acque può essere scolmata con trattamenti blandi o senza trattamenti direttamente al corpo d'acqua. Direttamente nel lago. Ok. Quando ci sono queste piogge particolarmente intense, che tra l'altro stanno diventando frequenti ultimamente. Esattamente. Infatti questo è un problema particolarmente sentito in relazione ai cambiamenti climatici. Certo. Ora, la conoscenza della qualità di queste acque che andiamo a scolmare direttamente e di quanto queste vanno ad inquinare, a impattare l'ecosistema, come dicevamo inizialmente. Esattamente, questa non è da accertare, e noi okay. andiamo a fare grazie a sistemi di trattamento innovativi e alla conoscenza di quando questi sono opportuni o meno, a seconda della qualità dell'influente e dell'effluente da queste piattaforme dimostrative. Ecco, cioè in pratica quindi proverete un po' a depurare queste acque scolmate, un po' a vedere che cosa succede lasciandole così, per capire se ha veramente senso su queste acque così diluite intervenire. Quali saranno queste tecnologie innovative per il trattamento delle acque meteoriche che proverete, che metterete in prova? Noi andremo a validare presso il territorio di Lazise un impianto dimostrativo integrato che mette insieme un microfiltro dinamico con con carboni attivi, okay, con disinfezione UV, in modo da UV, ultravioletti, rimuovere... quindi, sì. Esattamente, sia inquinanti convenzionali che inquinanti sostanze pericolose come metalli pesanti, idrocarburi, pesticidi, e andremo a monitorare l'efficacia e l'efficienza di questo impianto in modo da avere subito il riscontro sull'efficienza di questi che sono picchi di flusso che devono essere trattati. E obiettivo finale di tutto questo lavoro comunque sarà arrivare a un software decisionale che appunto potrà essere utilizzato da vari enti in giro per l'Europa che hanno a che fare con la gestione dei laghi. Esattamente, questo è l'obiettivo principe del progetto, il supporto alle decisioni per la gestione dei bacini idrografici, laghi e fiumi europei, al fine di includere non solo caratteristiche eco-idrodinamiche ed ecologiche, ma anche caratteristiche di risposta della società. Tant'è vero che nel progetto saranno inclusi gruppi di cittadini, sì, che andranno a monitorare insieme ai ricercatori, ai tecnici, le acque. Questi poi daranno un output di conoscenza che sarà recepito dal software, che quindi avrà non solo una parte tecnica ma anche una parte sociale in linea con Horizon 2020, che vuole migliorare la vita dei cittadini europei. Va bene, grazie. Grazie Francesco Fattone, buon lavoro allora. Grazie a voi, arrivederci.